siamo attraversati dalle cose che vengono denunciate dalla piattaforma di questo sciopero, e soprattutto abbiamo registrato un cambio significativo anche delle dichiarazioni, perché poi non erano nient'altro quelle del sindaco e del centrosinistra del territorio, che quando c'era ministro Salvini e c'era un governo di cui non faceva parte il Partito Democratico sostenevano la necessità di cambiare tutta una serie di leggi, anche quelle che avevano approvato come centrosinistra, in particolare sul tema del lavoro, sul tema dell'accoglienza e sul tema della sanità. Rispetto a tutto questo, da quando c'è questo nuovo governo, sembra che invece le stesse cose che venivano denunciate soltanto un anno fa non siano più una priorità e non siano un problema. Al tempo stesso c'è una insopportabile retorica delle istituzioni a livello locale che dicono che a Firenze non ci sono i problemi, non ci sarebbe l'emergenza casa, non ci sarebbe un sistema sanitario da rafforzare e andrebbe tutto relativamente bene. Noi sappiamo benissimo che così non è, è difficile rompere il silenzio e quella narrazione del senso comune che dice che in realtà viviamo in un territorio meno peggio degli altri, viviamo nel quotidiano tutte le difficoltà e le contraddizioni di questa società, per cui un momento come questo di lotta, di resistenza e che esplicitamente rivendica la necessità di un cambiamento è importantissimo.